Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e come sempre siamo qua a raccontarvi la cronaca della giornata economico-finanziaria. Cronaca intensa oggi, molto intensa, soprattutto sui mercati finanziari che stanno prendendo una sberla da circa mezz'ora, un'ora, dopo che è letteralmente sprofondata Madrid. Adesso vi do l'ultimo aggiornamento, la borsa di Milano perdeva il 3%, con titoli come Intesa meno 4,5, Mediobanca meno 4,5, le CIR meno 5,2, Generali meno 4,3, Popolare Milano meno 4%, Mondadori meno 4, Unicredito meno 4, Fiat meno 3,90 e Parigi perde il 2,7, Francoforte pure, Londra meno 2%. I timori, purtroppo ne abbiamo parlato anche ieri, della Grecia, che l'effetto domino si possa espandere ad altri paesi, l'effetto greco, diciamo, quindi una non tenuta del debito pubblico, dei conti, possa diventare un effetto domino su altri paesi, stanno affossando la borsa di Madrid e fra pochissimo ne parleremo a borse chiuse. Devo dire che c'è stato un tentativo di recupero perché Milano perdeva il 3,1, adesso perde il 2,90, però sono sempre cali molto pesanti. Questo è l'ultimo aggiornamento. In realtà poi la giornata economico-finanziaria ha visto oggi altri elementi e mi riferisco da un lato al botta e risposta, polemica fortissima tra agricoltori intesi come Confagricoltura e ministro dell'agricoltura inteso come Luca Zaia. Sono volati quasi gli stracci. Perché? Perché oggi si inaugurava a Verona la fiera agricola, 109esima edizione, e che cosa è successo? Che Zaia ha ribadito che è contrarissimo e fra di tutto proporsi all'introduzione del mais OGM, quindi mais geneticamente modificato, in Italia, dopo che una sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione a un agricoltore che voleva piantarlo, che voleva seminarlo, 3 giorni fa, e la Confagricoltura invece ha ribadito che andrà avanti con, diciamo, la semina del mais geneticamente modificato. Ha detto a Zaia: pensi ai problemi che ha sul McDonald's se non vuole cibo modificato dall'estero. E quindi anche di questo parleremo. Partiremo subito con la vicenda Alcoa e Fiat, perché su Fiat non ci sono grossissimi sviluppi, qualche botta e risposta anche lì tra i vertici Fiat e il governo, incentivi sì, incentivi no, sentiremo anche il Presidente del Consiglio Berlusconi. Però su Alcoa i tempi si fanno lunghi, abbiamo chiesto, e sarà nostro ospite tra poco, di parlare con il responsabile europeo del gruppo, del colosso mondiale dell'alluminio, che bloccherà le attività se non riceverà un prezzo dell'elettricità più basso, come promesso, nei due stabilimenti, Porto Vesme, provincia di Cagliari, 600 dipendenti, Fusina, vicino a Mestre, a Venezia, 150 dipendenti. Cerchiamo di capire perché non si riesca a tenere aperto lo stabilimento in attesa di una risposta europea. Il governo ha promesso di dare elettricità a costi della metà, di un terzo, inferiore a quello che è il costo medio dell'elettricità in Sardegna. Si attende una risposta di Bruxelles, che sta valutando se un'iniziativa del genere possa o non possa essere considerata aiuto di Stato. Dopodiché i mercati, e lo ricordavo, avremo anche, se ce la facciamo, perché oggi la vedo male come giornata, un approfondimento sulla fiera del Mad Expo, che è aperto ieri battenti a Milano. Dovevamo farla anche ieri, evidentemente nasce sfortunato questo approfondimento, lo faremo domani. Settore dell'arredo e mobilio arredo, settore importantissimo, però mi sembra che oggi sia la borsa a dettare la scaletta di questo programma. L'euro è sceso sotto quota 1,38, anche però 1,37,8. Si sta muovendo un po' tutto sui vari mercati internazionali. E allora rapidamente le altre notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Calo anche il petrolio, praticamente a 75,9 dollari al barile. C'è un titolo come Eni che cala invece per altri motivi. Che cosa è successo? È successo che oggi, dopo che il numero dell'Eni, Paolo Scaroni, era a Bruxelles e ha incontrato il commissario europeo alla concorrenza, Neil Kroes, l'Eni ha annunciato che cederà le sue partecipazioni nei gasdotti TAG, TEMP e Transit Gas. Praticamente il TAG è il Trans Austrian, il gasotto transaustriaco che trasporta gas russo in Italia, è lungo 1000 km se non ricordo male. Transit Gas è lungo 290 km e trasporta gas olandese e norvegese sempre verso l'Italia. E il TEMP è, trasporta in Italia gas olandese, il Trans Europe Natural Gas Pipeline. Ebbene, che cosa ha deciso l'ENI? Che uscirà da tutte le partecipazioni che aveva nella rete di gasdotti europei, come hanno battuto le agenzie in maniera un po' impropria. Non nulla invece, lo dico a chi scrive e chi ce lo chiede, è stato deciso anche perché non era oggetto dell'incontro sulla partecipazione di ENI in Snam Rete Gas. Paolo Scaroni ha parlato anche di Iran, ha detto infatti che dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio in visita in Israele, ha detto Scaroni: onoreremo i contratti già firmati nel 2000 e nel 2001 perché gli impegni vanno rispettati e il governo italiano conosce la nostra posizione, dopodiché non faremo nuovi contratti in Iran. Allora, Toyota, piove sul bagnato perché continua a calare il titolo, meno 5% questa mattina il titolo Toyota. Dopo il tonfo praticamente del titolo e il continuo annuncio di nuovi modelli che devono essere ritirati, adesso la notizia di ieri sono i freni difettosi della Prius, che l'anno scorso ha venduto 400.000 unità. Il ministro per gli affari dei consumatori, perché c'è un ministero per gli affari dei consumatori in Giappone, potremmo averlo anche noi volendo, Mitsu Fukushima, ha convocato i vertici della Toyota. E anche il governo americano ha aperto un'inchiesta sui freni del Prius. Quanto costerà questo scherzetto della Toyota? Tantissimo, da 1,3 miliardi a 1,4 miliardi di euro. Questi costi, gli oneri legati al maxi richiamo di vetture nel mondo, in tutto sono 4 milioni di vetture ritirate, perché 1,8 milioni in Europa, 2,3 milioni negli Stati Uniti, poi c'è qualcos'altro in Sud America, in Africa, ma insomma 4 milioni di vetture ritirate. E vedremo come si svilupperà poi la vicenda sulla Prius. Dato peggiore delle stime degli analisti, quello sulla disoccupazione americana, i sussidi sono aumentati più delle attese. La Banca Centrale Europea nel frattempo ha lasciato i tassi invariati, ha detto Trichet: la crescita prosegue, evidentemente i mercati oggi non l'hanno seguito, la crescita prosegue in maniera non forte, ma insomma continua a espandersi l'attività economica, c'è un'alta disoccupazione nell'area euro e peserà sui consumi e la crescita dei prestiti sarà debole nei prossimi mesi. E poi Trichet ha parlato anche della Grecia, ha detto: bene le riforme annunciate, adesso vogliamo vedere i fatti. Ma comunque ne parleremo quando faremo l'approfondimento su quello che sta capitando oggi a Madrid soprattutto. Adesso vi darò anche l'aggiornamento su quello che sta facendo la borsa di Madrid, che era impicchiata. Vedo che di nuovo le borse sono tornate sopra il 3% quanto a calo, meno 3,2% in questo momento Milano. Andiamo avanti rapidamente, ultima notizia: gli affitti, il costo degli affitti in Italia, chiaramente stiamo parlando dell'Italia, sono raddoppiati negli ultimi 20 anni. E un rapporto di Nomisma dedicato al settore immobiliare ha fotografato una situazione in cui ormai l'affitto pesa sul reddito per quasi il 18% del totale, e 20 anni fa pesava per una cifra molto molto inferiore, del 9-10%. Tra l'altro ricordo anche la notizia che demmo un paio di giorni fa: oggi servono in media 12 anni di stipendi per acquistare un bilocale da 60 metri quadri in città Milano, Roma, anzi a Milano, sì, Milano 12 anni, mentre pensate che 10 anni fa bastavano solo 7 anni e mezzo di stipendio. Cioè a Milano si è passati da 7 anni di stipendio per acquistare un bilocale da 60 metri quadri a 12 anni di stipendio, a Roma si è passati da 8 anni a 14 anni di stipendio, a Napoli da 7 anni a 13 anni di stipendio. E poi dicono che non c'è stato l'impoverimento della classe media. 349-238-6666, allora Fiat, Alcoa e poi le borse. Non lo metterò neanche sotto tortura oggi perché non possiamo tornare a quei livelli, mi auguro di no, meno 3,3 in questo momento. Allora, la vicenda Fiat. il Presidente del Consiglio Berlusconi, gli incentivi, ha detto Berlusconi, noi siamo pronti, ma è la Fiat che non è interessata. Segnalo che questa mattina in un'intervista, in una lunga intervista alla Stampa, al quotidiano La Stampa, il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, ha detto, attenzione, io sono agnostico sugli incentivi, perché il governo farà la sua scelta, ma noi la accetteremo senza drammi. Dobbiamo comunque avere decisioni fatte in tempi brevi e uscire dall'incertezza, e comunque non si può vivere di soli incentivi, nel senso che gli incentivi prima o poi vengono meno, quindi dobbiamo anche iniziare a ragionare su una situazione senza incentivi. Ricordo che ieri il ministro Scajola aveva detto valuteremo se bloccare o meno gli incentivi. La risposta di Marchionne, per come l'abbiamo capita noi, è va bene, non vi preoccupate che noi tanto dobbiamo ragionare di vivere e di sopravvivere senza incentivi, non si può andare avanti tutta la vita con gli incentivi. Sentiamo Berlusconi questa mattina. Stavamo esaminando la possibilità di rinnovarli, e come lei ha visto il principale produttore italiano, la Fiat, pare non sia interessato ad averli, quindi è ancora un capitolo aperto. Stiamo discutendo anche con gli altri protagonisti del settore dell'auto e vediamo come si metteranno le cose, sempre aperti e pronti a dare una mano là dove serve. E poi le dichiarazioni della politica, io dico spesso, insomma, attenzione a confondere campagna elettorale, elezioni regionali con i temi dell'impresa, perché il Presidente del Senato, Renato Schifani, ha detto la chiusura dei Termini Imerese è un fatto scellerato. Allora, a parte il fatto che non sta a noi difendere Marchionne nella Fiat, ma questo annuncio è stato fatto ancora mesi fa. Io capisco che il Presidente del Senato, Renato Schifani, sia molto legato e molto attento anche a quello che è la sua terra, quindi il collegio elettorale come la Sicilia, ma se un'impresa dice che non ce la fa a produrre con quei costi e con quell'indotto, o la sovvenzioniamo di nuovo, la Fiat, e non mi sembra una gran soluzione, oppure le facciamo chiudere Termini Imerese. Comunque, sentiamo Schifani. Mi spiace che queste parole vengano da chi conduce un'azienda che nei decenni pregressi è stata fortemente sostenuta dallo Stato per mantenere i livelli occupazionali. Detto questo, io ritengo che occorre guardare con una strategia complessiva quelli che sono i problemi della produzione italiana, lo sta facendo il governo, e ritengo che anche la Fiat debba guardare all'interesse etico-sociale della produttività e del lavoro. Ancora, andiamo avanti con le dichiarazioni. Il Presidente del Senato, Renato Schifani, ha detto, ricordiamoci che l'occupazione è la prima risposta dello Stato alla mafia. Il ministro Roberto Calderoli è tornato con una vecchia verve polemica della Lega contro la Fiat, storicamente data, la Fiat ha preso i soldi, ora scappa. Anche qui io non capisco quali soldi abbia preso la Fiat, visto che gli incentivi sono stati incentivi per tutto il settore. Se ci riferiamo ai soldi del passato per aprire gli stabilimenti di Termini Imerese o di Pomigliano, ma non si può chiedere a Marchionne di farsi carico di quello che è stato il rapporto politica-Fiat 20 anni fa, altrimenti torneremo a dare soldi alla Fiat. Comunque, poco fa la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia ha chiesto incentivi anche ad altri settori in crisi, dopo aver ricordato che sarebbe sbagliato legare gli incentivi alla vicenda di Termini Imerese. La nostra posizione è che in un momento difficile come questo, in un paese che per problemi di politica, di bilancio, non ha fatto una, come dire, una politica di sostegno forte ai vari settori, in questo momento servono sostegni e incentivi ai settori che stanno soffrendo di più. Quindi c'è l'auto, ma non c'è solo l'auto, c'è anche l'elettrodomestico, ci sono le macchine in movimento terra, ci sono i mobili, c'è il tessile, ci sono vari settori. Quindi la nostra posizione è che in questo momento bisogna dare un sostegno a tutti i settori che soffrono. Così la presidente di Confindustria Marcegaglia, che poi sull'articolo 18, dopo le dichiarazioni di ieri che abbiamo fatto sentire, le aveva già dette anche ai nostri microfoni il ministro Brunetta, di genitori ipergarantiti dall'articolo 18, ha detto la presidente di Confindustria, non mi sembra in questo momento che sia una priorità parlare di articolo 18, le cose di cui ci vogliamo occupare sono altre. staremo a vedere. Mamma mia, meno 3,5 adesso il mercato. Speriamo che arrivi velocemente la chiusura oggi della borsa, perché sta pigliando una scoppola mica da ridere. E tra l'altro in questo momento i bancari guidano: Mediobanca meno 5,5, Intesa meno 5,3, CIR meno 5,2, Unicredito meno 5%, Popolare Milano meno 4,80, Generali meno 4,80, Fiat meno 4,80, Mondadori meno 4,60, Prisma meno 4,3%. Era un bel po' che non vedevamo una giornata così, purtroppo. O meglio, per fortuna che era un po' che non la vedevamo. Ricorda veramente quel finale di 2008, 2000, tra settembre, ottobre, novembre del 2008. E dopo questa mia affermazione, no, aspettiamo ancora un po' con certi animali. Andiamo avanti con la vicenda invece Alcoa, perché anche sul fronte Alcoa ci sono problemi, tensioni e anche scontri tra operai e dirigenti. Allora, che cosa è successo ad Alcoa? Alcoa è un gruppo americano, lo ricordiamo ogni volta, un insieme di stabilimenti in Italia, 2500 persone in Italia, ma ne ha 600 a Porto Vesme vicino a Cagliari e altre 120 a Fusina vicino a Venezia. Questi due stabilimenti sono a rischio, diciamo quasi certo, di chiusura se non riesce a ottenere Alcoa il prezzo dell'energia che era stato promesso e che poi invece è stato contestato dall'Europa come aiuto di Stato, ha dovuto pagare una multa. E allora adesso il governo ha riproposto di dare un prezzo, diciamo, che è praticamente un terzo rispetto a quello che si paga nel resto di ditte della Sardegna. Si paga comunque adesso 30 euro per 1000 kW contro i 70/100 euro di adesso. Ricordo anche che la Sicilia e la Sardegna, le due regioni interessate da questo provvedimento, pagano già un'elettricità altissima, si arriva a 90 euro, a 100 euro in Sardegna contro una media nazionale di 57 euro. Il governo ha detto: va bene, vi daremo l'elettricità a 30 euro a patto che, non solo l'Alcoa, tutte le imprese sarde che hanno sede in Sardegna o in Sicilia, a patto che accettiate il distacco quando si raggiungono i picchi di produzione. Va anche detto che questi costi dell'elettricità sono così alti in Sicilia e in Sardegna perché sono inadeguate le strutture, non perché sia qualche fenomeno così strano o meteorologico. Comunque il governo ha detto, questa è la promessa che ha fatto il governo, Alcoa dice: vogliamo aspettare l'Europa, tant'è che oggi un insieme di personaggi della politica, del governo, hanno chiesto all'Europa di fare in fretta, a partire dal Presidente del Senato Schifani, di fare in fretta, di dare una decisione e fare sapere all'Italia se questa iniziativa può o meno essere considerata aiuto di Stato, quindi se verrà bloccata oppure invece fatta passare. Grazie per averci raggiunto in collegamento l'ingegnere Alessandro Profili, responsabile degli affari istituzionali di Alcoa Europa. Nei giorni scorsi abbiamo avuto le voci degli operai, le voci del sottosegretario Saglia, quindi sentiamo oggi anche la stessa Alcoa. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Allora, ingegnere, molto semplicemente, adesso l'Europa deve valutare se questi siano o non siano aiuti di Stato. Però il governo, nel caso specifico oggi un ministro come Roberto Calderoli, ha detto, insomma, Alcoa dovrebbe ricordarsi, già l'hanno fatto altri esponenti del governo ieri, i soldi che ha già ottenuto lo Stato italiano, perché quando voi veniste sottoposti a una multa da 300, foste sottoposti a una multa da 300 milioni di euro... Mi permetta di chiarire. Prego. Che questi non sono soldi ricevuti dal governo italiano, sono semplicemente la differenza tra un prezzo di mercato... Che pagavamo e la tariffa agevolata che era stata concordata dal momento dell'acquisto dell'Alcoa, certo, 15 anni fa, ed era del tutto garantita da una legge dello Stato italiano. No, ma mi faccia finire, se no gli ascoltatori non capiscono. Cioè, ci fu una multa nel passato da 300 milioni di euro che vi fu data dall'Europa. Il governo italiano, se ben ricordo, si caricò di metà quasi della multa, se vado a memoria. Penso che si riferisca a questi soldi, ministro Calderoli. Comunque, perché non vi fidate quando il governo ha detto porteremo a 30 euro per 1000 kW il costo dell'elettricità in Sardegna e anche in Sicilia contro i 70-100 euro di adesso? Allora, ci sono due motivi obiettivi. Prima di tutto, i 300 milioni non sono una multa, ma sono un recupero di questa differenza e sono soldi che noi non abbiamo mai incassato, sono soldi che sono andati al produttore di elettricità, è semplicemente un rimborso che noi abbiamo ottenuto e non ci fidiamo perché è venuta fuori questa... Lei la chiama multa, io lo chiamo recupero, ma insomma è la sostanza la stessa. Come possiamo fidarci se non c'è un chiarimento da Bruxelles che questo è un legittimo decreto e quindi non soggetto a recupero o altre multe? Mi faccia capire. Sì. E il secondo motivo, i 30, come può il governo assicurare un prezzo se non si sa da che prezzo si parte? Il governo può solo assicurare lo sconto che può essere fatto da un prezzo di mercato a prendendo in considerazione queste misure, ma non può garantire un prezzo. Non ho capito questo, cioè perché dice che non può dire che la pagherete 30 euro invece che 70-100 euro in media che costa l'elettricità in Sardegna, costa più che nella media nazionale, già di suo, però perché non si può dire 30 euro? Non ho capito. Perché non è il governo che vende l'elettricità, l'elettricità dipende da un prezzo di mercato e poi l'unica cosa che può garantire il governo è l'effettiva misura che, come quella del decreto, ma tutto dipende dal prezzo di partenza. Allora, mi faccia capire però una cosa, ingegnere Preziosi, se voi otteneste, cioè tutto il tema ruota attorno al costo dell'elettricità, cioè se poi si avesse la garanzia da Bruxelles, speriamo prima possibile, che questa iniziativa del governo non verrà qualificata come aiuto di Stato, quindi non verrà bloccata dall'Europa. E basterebbe questo per lasciare la COA aperta, Portovesme, diciamo, e Fusina Venezia? Bisogna arrivare anche a questo prezzo dei 30 euro e per arrivare a questo prezzo dei 30 euro è necessario un contratto bilaterale con un fornitore che garantisca questo prezzo su un certo periodo di tempo. Questa è sempre stata la nostra condizione. Le misure del governo sono molto importanti e sono un elemento essenziale per arrivare a questo prezzo, ma ci vuole anche l'altro, ci vuole il contratto di fornitura con un produttore che garantisca quel prezzo. Mi scusi, ma va benissimo, insomma, tutti vorrebbero l'energia e l'elettricità più bassa, vedo anche molti messaggi, il 349-238-6666, che riguardano proprio questo tema, molti imprenditori del nord che hanno acciaierie o producono nel settore metalmeccanico dicono, beh, noi la paghiamo tanto l'energia elettrica, ma insomma non si poteva chiarire prima questo, cioè perché scoppia tutto adesso, che è già un periodo occupazionalmente molto difficile, cioè che l'elettricità fosse cara in Sardegna lo sapevate anche prima. Certamente, e per quello operavamo quando si poteva arrivare a dei prezzi che potevamo mantenere le operazioni. Fino al 19 novembre del 2009 avevamo un prezzo che ci permetteva di operare. Con la decisione della Commissione questo è saltato. Se non ci sono quelle condizioni noi non possiamo operare. Se invece avrete questa garanzia, gli stabilimenti resteranno aperti? Senz'altro, se c'è. Ecco. Nel frattempo problema... che facciamo? Perché anche il governo dice abbiate un attimo di pazienza perché Bruxelles ha ricevuto il disegno di legge e deve dare, il governo stesso ha invitato, oggi l'ha fatto anche il Presidente del Senato Schifani, ha invitato l'Europa a darsi una mossa, a dare una risposta nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo? Nel frattempo aspettiamo questa risposta. Sì, ma con gli stabilimenti chiusi o aperti? Oggi gli impianti sono ancora o in operazione. Perché poi quando si chiude uno stabilimento come quello della COA di Portovesme, quanto ci vuole per riavviarlo? Tutto dipende da come si chiude. Se si chiude in maniera ordinata, è un processo che è già avvenuto in impianti in giro per il mondo, c'è una lunga casistica. Non è quello il problema. Il problema di chiusura va bene se viene fatta in maniera ordinata, cioè c'è tutta una procedura da seguire, una tempistica e quindi ci vuole la collaborazione dei dipendenti. E se viene fatto in maniera non ordinata, che poi non ho ben capito cosa voglio dire, ma insomma immagino non seguendo le procedure, cioè spegne l'interruttore, no, non mi spieghi. Ecco, se uno stacca l'interruttore, le celle dove viene prodotto il metallo gelano, quindi solidificano e quindi praticamente si deve buttare tutto l'impianto. Ah, proprio l'impianto? Le celle sono il cuore dell'impianto. Quindi sono costi colossali. Ma chi è che avrebbe intenzione di spegnere un impianto come quello dell'alcol di Portovesme così, mandando a gambe all'aria tutto lo stabilimento? Speriamo nessuno. Beh, non c'è... Il nostro piano è di fare una chiusura ordinata, se non vengono le condizioni di cui abbiamo parlato prima, a partire dalla settimana prossima. E quindi di iniziare a chiudere, aspettare un po' di più, no? Stiamo valutando giorno per giorno, direi quasi ora per ora. Va bene, grazie, spero che ci risentiremo e spero che ci risentiremo per commentare un impianto dell'Alcoa a Porto Vesme e a Fusina ancora aperto. Grazie al responsabile affari istituzionali di Alcoa Europa, l'ingegnere Alessandro Profili. Grazie a lei, buonasera. Allora, questa appunto la situazione. Vedo un'agenzia adesso che mi stanno mostrando dalla regia, allora la leggiamo assieme. Momenti di tensione nello stabilimento Alcoa di Porto Vesme, eccoci qua, nel Sulcis. Appena rientrati dalla trasferta a Roma, i circa 500 lavoratori hanno allontanato i tre dirigenti aziendali presenti nella fabbrica ed è scoppiato un piccolo tafferuglio. Secondo quanto si è appreso, nella tensione generale alcuni operai sarebbero rimasti contusi agli arti inferiori e superiori e un'auto danneggiata. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 su Fiat, però oggi non possiamo tornare di nuovo sul tema. Devo dire che sì, vabbè, non vi dico anche gli ascoltatori, poco importante come uno parla, l'importante è quello che dice, dico così alcuni commenti che leggo. Non ho capito nemmeno io cosa voglio dire questo augurio, speriamo che nessuno voglia chiudere l'Alcoa di Porto Vesme così, non in maniera ordinata, quindi danneggiando in maniera irreparabile l'impianto. Non vedo chi avrebbe questo interesse, gli operai sicuramente no, perché perderebbero definitivamente il lavoro e penso nemmeno l'azienda, per cui no, la chiuderanno in maniera ordinata. Vabbè, allora la borsa fra un attimo, respiriamo ancora un po', va là che è meglio. Meno 3,5% oggi Piazza Affari. Madrid ha perso il 5,5%, qui traballa anche il governo Zapatero. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, seconda mezz'ora di Focus Economia. Di Alcoa non possiamo più parlare, né di Fiat, ma avete sentito, purtroppo ci sono scontri. Noi abbiamo chiesto insomma il perché di questa fretta, se mancano pochi giorni, se l'Europa ha promesso che darà una risposta brevissimo, se si può fare così, se si può aiutare le imprese sarde e siciliane sull'elettricità, oppure se verranno considerati aiuti di Stato. Insomma, magari si poteva aspettare una settimana, due settimane, tre settimane, non mi sembra una questione capitale, che semmai i soldi uno glieli può anche rimborsare, piuttosto che lasciare per strada 600 persone e iniziare a chiudere l'impianto, capito, in maniera ordinata. Ordinata per chi lo chiude, non per chi ci lavora. Comunque, vabbè, oggi è da gufo. È così, l'avete evocato fin dall'inizio e a un certo momento il gufo si è svegliato, perché meno 3,5% Parigi e anche Francoforte perde il 2,5%, Milano comunque dopo Madrid è tra le peggiori, questo non vorrei sapere per quale motivo è, e invece lo so ed è molto semplice, l'effetto domino è quello che sta penalizzando la borsa di Madrid, ha perso il 5,5%, il listino iberico si teme. Ieri abbiamo sentito una dichiarazione del premio Nobel dell'economia Krugman, che diceva: attenzione, il vero problema non è la Grecia, che conta poco, pesa poco, non fa male, ma è la Spagna, ed eventualmente il mercato inizia a ragionare anche sul rischio Italia. Vedo che l'Italia perde un punto percentuale in più, sicuramente sta ragionando, lo ha fatto in maniera abbastanza repentina, sulla borsa, sul rischio Spagna, sul rischio che conti pubblici spagnoli possano non tenere. Malissimo oggi tutti i settori, in particolar modo quello bancario. Il gufo l'abbiamo dato, diamo la campanella adesso. Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, adesso arriveremo a collegarci anche con il corrispondente Sole 24 Ore da Madrid e poi con chi sta seguendo, diciamo, tutto lo scenario, anche quella che è la cosa più importante in questo momento, quanto costa comprare debito spagnolo rispetto al debito tedesco, la differenza tra quanto rende un'obbligazione spagnola e un'obbligazione tedesca. Parliamo, cioè, sgombriamo il campo invece da altri casi, perché al di là del calo, della batosta complessiva, ci sono anche dei casi di borsa. Eni sulla vicenda delle reti, l'è stata obbligata a uscire dalle reti di gas europeo. Sì, allora Eni ha ceduto il 2,59%, quindi ha fatto meglio del mercato e praticamente appunto oggi è arrivata la notizia che dovrà dismettere le partecipazioni azionarie nelle tre infrastrutture internazionali di trasporto di gas. In realtà poi l'amministratore delegato Paolo Scaroni ha sottolineato che la strategia commerciale comunque dell'Eni non cambia, che la cessione delle tre pipeline è una cosa dolorosa, ma si tratta solo di un piccolo fattore che non tocca la strategia complessiva della società nel settore del gas. Del gas, ancora abbiamo visto uscire degli utili molto belli in Spagna. Banco Santander, utile a 2 miliardi e 2 più 13% sopra le stime. Deutsche Bank, trimestrale, utile a 1 miliardo e 3 sopra le stime. Insomma, ci sono state anche notizie buone, ma nulla è servito sui bancari, mi sembra. No, allora il comparto bancario a livello europeo ha infatti ceduto il 5,6% circa. I conti di Deutsche Bank, che è scivolato il 4,2%, e del Santander, che ha ceduto l'8,5%, sono stati giudicati migliori delle attese, però alcuni fattori hanno deluso gli analisti. Per quanto riguarda Deutsche Bank, gli analisti hanno messo l'accento sulla performance deludente del segmento banca di investimento e sul fatto che il boom dell'utile del quarto trimestre deriva soprattutto da un effetto fiscale straordinario. Per quanto riguarda il Santander, più che altro i timori degli investitori sono rivolti al 2010, vista appunto la difficile situazione in Spagna, quindi le preoccupazioni sulle banche hanno trainato anche al ribasso le banche milanesi, come Intesa San Paolo, che ha ceduto il 5,3%, Mediobanca il 5,2% e Unicredit il 5%. Beh, se vogliamo dare una botta d'allegria, parliamo anche della Popolare di Milano, meno 4,80%, Generali meno 4,60%, Banco Popolare meno 3,80%. Senti, Livia, prima di passare poi all'approfondimento dei gufi, perché a questo punto ci collegheremo con Madrid, parleremo dei mercati europei, ci dai una buona notizia prima di salutarci di borsa, chiaramente non del resto della tua vita, ma insomma qualcosa di buono è successo oggi a Piazza Affari oppure no? Allora, possiamo sottolineare ad esempio Telecom Italia, che ha fatto assolutamente meglio del mercato, ha perso l'1,8% e stamattina comunque era in rialzo grazie al comparto delle telecomunicazioni, che aveva tenuto dopo la pubblicazione dei conti di Nokia, che sono risultati sopra le attese, soprattutto grazie al fatto che la società ha alzato le stime di utile sull'anno. Sì, in effetti devo dire anche che Telecom Italia sulle media, sulle risparmio, più 3,95%. Ti ringrazio di cuore perché abbiamo trovato anche un elemento positivo in questa giornata. Grazie Livia Zancaner. minuti, adesso parliamo della giornata di borsa, ma oggi più che parlare di borsa in senso stretto, abbiamo già commentato i titoli, senza creare nessun effetto panico, nessun allarmismo, bisogna ragionare su un tema che purtroppo sta valeggiando come un avvoltoio da giorni. Mi riferisco all'effetto domino dopo che si è scoperto che la Grecia ha truccato i conti e che in una situazione normale sarebbe forse stata espulsa dall'euro, ma non ce lo possiamo permettere in questo momento. C'è un acronimo inventato negli Stati Uniti dagli economisti che si chiama PIGS, oggi ne ha scritto anche Walter Iolfi su Sole 24 Ore, e vuol dire Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, vorrebbe dire porci in inglese, però questi quattro paesi sono quelli più visti a rischio. Sono aumentati moltissimo anche gli spread, cioè la differenza tra quanto costa comprare, quanto rende un'obbligazione italiana e quindi quanto è costoso per l'Italia trovare compratori, quanto rende invece un'obbligazione tedesca. E questa non è una bella cosa, ma soprattutto sono crollati tutti i mercati. Allora, Walter Iolfi, grazie per averci raggiunto in studio e grazie anche a Michele Calcaterra che è in collegamento con noi da Madrid. Michele, buonasera. Buonasera a voi. Allora, prima vorrei sapere che cosa è successo in Spagna e poi vorrei sapere che cosa sta capitando nel resto d'Europa. Michele, perché la borsa spagnola è crollata del 5,5%? Cioè non abbiamo visto nuove notizie oggi e tutto è successo in maniera abbastanza repentina. Beh, insomma, non è successo niente, però è successo, nel senso che c'era un'asta di 2 miliardi e mezzo di euro di titoli a 3 anni e il rendimento è salito del 23% rispetto a dicembre, a dimostrazione che il rischio paese è in aumento. E poi quello che si è visto oggi, purtroppo tragicamente, è che si è creato un fronte speculativo nei confronti della Spagna e quindi un'assimilazione della Spagna a tutti i rischi che può avere la Grecia e il Portogallo che confina con la Spagna. Ecco, e già il Portogallo ha avuto un problema, se non ricordo male, tu ne hai scritto oggi, Michele, ieri, sì, appunto, sì, ieri, sì, nel, sì. Non ha trovato compratori per le sue obbligazioni, per i suoi bond? Esatto, esatto, sì. Ecco, c'è da dire una cosa, che oggi sono stato alla conferenza stampa per la presentazione dei dati del Banco Santander e il presidente Bottin ha detto: non confrontiamo la Spagna con la Grecia, perché uno è come Real Madrid e l'altro è come una squadra di seconda divisione, insomma di Serie B, per cui insomma bisogna anche stare attenti a questa speculazione nei confronti contraria, nei confronti della Spagna. È molto rischiosa perché poi potrebbe avere un effetto domino anche su altri mercati e su altri paesi di ben altra dimensione. Fermo restando che anche Real Madrid ogni tanto qualche pappina la prende in campo. Milan poi. Ma no, io questo non lo direi mai. Non andiamo in questo tema. Ma io vorrei capire una cosa, Michele. Ho capito che tutti rassicurano, però se c'è un movimento speculativo su questo, ricordiamo di cosa accadde alla lira e alla sterlina, il passaggio successivo doveva essere, se non ricordo male, il franco, poi non ci si arrivò, quando i mercati, Soros in testa, si misero tutti d'accordo, la lira doveva essere cacciata dallo SME e la lira fu cacciata dallo SME, la sterlina doveva essere cacciata dal sistema monetario europeo, dal serpentone, e fu cacciata. Ora è chiaro che anch'io sono d'accordo con te che è molto pericoloso perché si rischia l'effetto domino, ma se qualcuno sta iniziando a assumere posizioni che vanno a scommettere su questo, posizioni ribassiste come si chiamano in gergo, è chiaro che c'è qualcuno che sta guadagnando parate di soldi sull'ipotesi, diciamo. Prego. Questo sicuramente, però in qualche modo sarebbe da disinnescare. Certamente quello che è successo oggi è anche una percezione dei mercati che ormai la Spagna, il rating della Spagna verrà ridotto, verrà abbassato, e quindi è anche una presa di coscienza del fatto che la posizione della Spagna non è più così virtuosa come era qualche tempo fa, prima della crisi, quando i suoi conti pubblici erano tutti di segno positivo. Adesso invece c'hai un disavanzo pubblico che è superiore all'11%, il debito che sta aumentando, quindi è un paese che ha sicuramente dei problemi dal punto di vista dei conti pubblici, però insomma è un paese che rimane solido. Ecco, quanto ha pesato? Perché insomma, però vedere la borsa che perde il 5,5%, obiettivamente io me lo ricordo solo in quel terribile periodo di ottobre quando fallì Lehman Brothers, cioè questi erano i livelli. Ora, quanta polvere c'è sotto il tappeto sul fronte mercato immobiliare? Cioè la crescita spagnola, adesso passami in termini, assomigliava molto a quella di Dubai, era tutta giocata sul mercato immobiliare, con costruzioni che non si capiva nemmeno lì dove ci fossero tutti i soldi per pagarle, per ripagarle, nuovi villaggi, nuovi centri commerciali, nuovi campi da golf, e poi il mercato immobiliare è sceso. Ora vorrei capire se ci sono delle posizioni non ancora chiare dal punto di vista finanziario e su questo il mercato va a speculare. Ma guarda, anche lì i numeri sono difficili da capire. Sicuramente ci sono 700-800 mila case in stock di invenduto, e questo è un dato di fatto. Ci sono anche debiti per 235 miliardi di euro, cioè il 30% del PIL spagnolo, da parte, diciamo, del sistema immobiliare spagnolo verso le banche, verso il paese. Oggi però, sempre per riferirmi a Bottin, lui stesso ha detto che il mercato creditizio, il settore creditizio spagnolo è in buona salute. Sì, c'è qualche problema in qualche cassa, però è risolvibile, è uno dei pochi paesi dove non è ancora intervenuto in forma massiccia nel settore creditizio. Insomma, c'è, è vero, un problema immobiliare, però mi sembra che le banche siano riuscite, almeno visto da qui, siano riuscite ad ammortizzare il problema. Tant'è che le banche, se guardiamo i bilanci di quest'anno, le banche spagnole hanno messo a riserva delle poste straordinarie proprio per far fronte ad eventuali partite incagliate nel settore immobiliare. Questa è la situazione. Però c'è da tenere anche in considerazione che è un paese in cui si basa su un'economia, diciamo una old economy, fortemente labor intensive, perché c'è l'automobile, c'è il turismo, c'è l'immobiliare, poca ricerca, poco sviluppo, poco export, media impresa, poche export, poca competitività. Allora sì, quello è il problema. Adesso io non voglio marmaldeggiare sulla Spagna, però ricordo che un anno fa, due anni fa, la polemica era: abbiamo superato l'Italia, siamo primi davanti all'Italia come reddito pro capite, poi si è scoperto che c'era molta droga lì dentro in quella crescita economica. Comunque ho un'ultima domanda per te, Michele Cacaterra. Dopo aver sentito però questo commento del presidente della Banca Centrale Europea questa mattina, Jean-Claude Trichet, che ha lasciato i tassi invariati, ha parlato in questo caso di Grecia, ma è chiaro che qualunque cosa venga detta dalla BCE sulla Grecia uno la può leggere anche verso la Spagna. The position of the ECB is the following. The ECB Governing Council approves of the medium-term goal. La posizione della Banca Centrale Europea è la seguente. Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi di medio termine fissati dal governo greco per portare il deficit sotto il 3% del PIL nel 2012. Ci attendiamo e siamo fiduciosi che il governo greco prenda tutte le decisioni che permettano di raggiungere gli obiettivi. That will permit to reach that goal. In this respect, the measures that were taken. A questo proposito, le misure prese martedì scorso, vale a dire le nuove tasse sui carburanti, il congelamento dei salari pubblici e l'aumento dell'età pensionabile, sono passi nella giusta direzione. Ora occorre che l'obiettivo circa il rapporto deficit-PIL per il 2010 venga raggiunto, così come quello finale di un deficit-PIL sotto il 3% nel 2012. Questa strategia è cruciale per una crescita sostenibile nel medio termine, sia sul fronte dell'economia che della creazione dei posti di lavoro. Sustainable growth and job creation in Greece. Allora, Michele Cacaterra, la domanda è questa volta più politica, poi passiamo con Walter Iolfi che ci ha raggiunto in studio a rendimenti delle obbligazioni, alla differenza tra quanto rendono obbligazioni dei vari paesi rispetto a quelle tedesche, all'euro che si sta pigliando una scoppola anche lui contro lo yen, è crollato a 122 e anche sul dollaro siamo a 1,37. Però vorrei capire una cosa, rischia il governo Zapatero come è successo in Grecia, sì o no? No, non mi sembra che possa rischiare a questi livelli. È chiaro che comunque la stella Zapatero non brilla più e che in generale la popolazione, l'opinione pubblica è abbastanza così contestatrice nei suoi confronti. Adesso vediamo cosa riuscirà a fare. Ha proposto una riforma delle pensioni, domani dovrebbe proporre una riforma del lavoro. Vediamo se sono, diciamo, misure valide e concrete. Finora è riuscito a mantenere la PAC sociale. Certo che se dovesse esplodere anche malumore, diciamo, a livello popolare e sociale, insomma, allora la situazione si complicherebbe di più. Il problema è che c'è anche un'opposizione abbastanza debole qui in Spagna, per cui non solo se in anche Spagna. Fosse, esatto, se anche fosse in crisi non rischia molto per il momento. Va bene, staremo a vedere. Grazie a Michele Cacaterra in collegamento con noi da Grazie Madrid. A voi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere questo approfondimento dedicato alla batosta sui mercati, -3,5 Milano e -2,5 alla fine Francoforte, -2,8 Parigi. Non abbiamo dato l'America, avete ragione, perde il 2% l'America, e anche di questo ci occuperemo, perché non è solo una vicenda spagnola ma anche americana quella che ha depresso oggi i mercati, -2,2 Londra, e poi Madrid -5,5 e anche Lisbona ha perso il 5%. Alcuni di voi ci hanno scritto al 349-238-6666 sul termine pigs, allora, che vorrebbe dire porci in inglese, ma sta per Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, scritto con due i. Molti di voi dicono come si permettono gli americani di usare questo acronimo, loro che hanno creato tutto questo crack, avete anche, o questa crisi finanziaria, avete anche ragione. Comunque torniamo a ragionare di quello che sta capitando sui mercati e sul rischio di un effetto domino Grecia, Spagna e poi altri paesi. Allora, chiarita la situazione spagnola con Michele Calcaterra, Walter Riolfi, come si sono mosse intanto? Anzi, prima di tutto, non c'è solo la Spagna, perché l'America sta perdendo il 2%. Ora, vorrei capire, l'effetto domino con l'America non c'entra nulla. Allora, perché si va a vendere in questo modo a Wall Street? Infatti la crisi non è solo la crisi del debito sovrano, eccetera, ma per capire quello che sta succedendo bisognerebbe ripassare un attimo quello che è successo dopo l'11 e il 12 di gennaio, brevemente, perché c'è stata una concatenazione di eventi. Dopo il 10 e il 12 di gennaio succede che vanno in crisi i bond societari, quelli ad alto rendimento, compresi i junk bond. Nei nove mesi precedenti erano stati emessi talmente tanti titoli, c'era stata talmente tanta domanda che i rendimenti erano scesi più o meno ai livelli da speculazione che avevamo nel 2006. Quindi si stava creando un'altra bolla. Dopo il 12 comincia a stornare il mercato dei bond societari, no? Quindi si rialzano i rendimenti, si fa più fatica a collocare i titoli. E questo era il primo segnale della crisi. Secondo segnale della crisi arriva dall'allargamento dei debiti, degli spread, quindi dei tassi di interesse sui debiti sovrani. Parte dalla Grecia, coinvolge l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, poi prima c'era stato Dubai. Ecco, e questo qui è un fenomeno soprattutto europeo. Ma tutto questo è in un contesto in cui la ripresa economica si sta rivelando più lenta, più faticosa di quello che si prevedeva negli Stati Uniti, come in Europa, come in Giappone e in resto, comunque nei paesi industrializzati. A quanto ammonta il debito americano, visto che ha dovuto spendere l'America? Adesso vado a memoria, ma complessivamente 700-800 miliardi di dollari per le banche, ma complessivamente i vari piani sono costati qualcosa come 7-8 mila miliardi di dollari. Certo. Comunque li vogliamo vedere, alcuni di questi soldi sono già rientrati, ma il debito americano a che livello è a questo punto? Facciamo conto che quest'anno il deficit sarà del circa il 12% sul debito, comunque si prevede che alla fine dell'anno, molti analisti prevedono che superi il 100% il debito statale, occhio, e poi ci sono i debiti federali, i debiti dei municipi, poi ci sono i debiti delle società che sono elevatissimi negli Stati Uniti e soprattutto i debiti delle famiglie. Arriveremo quest'anno o forse anche supereremo il 400% del PIL. 400% del PIL americano. Quindi da questo punto di vista è il debito complessivo più alto al mondo. Mm-hmm. Prendiamo l'Italia, che ha uno dei debiti pubblici terzo, più alti, no? Quindi saremo sul 115, adesso non so, non ricordo esattamente. Comunque, se noi sommiamo tutti gli altri debiti, non penso che arriviamo al 170% del PIL contro il 400% del PIL americano. Cioè, se noi dovessimo sommare anche i debiti delle amministrazioni comunali, arriveremo al 170% del PIL. L'America, sommando debito statale con i debiti dei vari stati, debito federale, scusatemi, con i debiti dei vari stati, certo, e dei vari enti locali, se si arriva al 400% del PIL. Certo, c'è il debito Fannie Mae e Freddie Mac, che sono quelle che è tutto il debito del mercato immobiliare, almeno del 60% del mercato immobiliare ce l'hanno a carico loro, e non viene, anche se sono dello Stato, non viene considerato pubblico dello Stato, ma in realtà di fatto lo è, come i debiti che avevamo una volta l'IRI, l'IRI, l'EFIM, eccetera, no? Allora, torniamo all'Europa. Chiarito che c'è un problema anche statunitense, non a caso va male anche Wall Street, parecchio, meno 2%. Come si sono mossi i rendimenti dei titoli di Stato dei vari paesi dell'area euro? Perché lo dico, lo spieghiamo ogni volta, per capire quanto uno Stato sia a rischio, un po' come con le obbligazioni di una società, più alto è il rendimento, cioè più ti costa offrire un rendimento alto per avere qualcuno che viene a comprare il tuo debito, a finanziare il tuo debito, più vuol dire che tu sei a rischio, perché se tu sei molto affidabile puoi emettere un'obbligazione e quindi puoi chiedere dei prestiti sul mercato a tassi di rendimento molto molto bassi. Ecco perché si usa come riferimento in Europa il titolo di Stato tedesco, il Bund a 10 anni, perché si ritiene che la Germania sia il paese meno rischioso quanto a debito, e si va a vedere quali sono le differenze tra questo rendimento e quello degli altri paesi. La Grecia è schizzata al 3,8% di differenza, per cui costa un 3,8%, un 4% in più finanziare il debito greco. L'Italia, la Spagna, come si sono mosse? Sono saliti leggermente. L'Italia diciamo che dei paesi cosiddetti a rischio è quello il cui spread, il cui differenziale di rendimento è salito, diciamo, meno di tutti, anche perché la situazione in Italia è già più chiara e comunque i problemi non derivano da questa crisi, ma sono già dei problemi antichi, no? Beh, non abbiamo la bolla immobiliare e non abbiamo avuto problemi con le banche di entità, per cui insomma... E comunque quello spagnolo è salito, mi pare, sui 95, potrebbe forse essere a 100 poco fa, quello portoghese è più alto ancora, sì, eccetera, 130. Eccetera. No? E quello greco forse ormai anche sopra i 400, quindi sopra 4 punti percentuali. Mm-hmm. E ecco, questi tutti sono saliti, c'è sempre da precisare una cosa: i mercati, quando operano, quando reagiscono, è come il cacciatore che spara dappertutto, no? In inglese dice overshooting, no? Prima si spara e poi si dice chi va là, e quindi sparano su tutto, e sparano sulle borse, su tutte le banche europee, no? E curiosamente non avevano sparato sulle banche americane fino a qualche giorno fa, no? Che era paradossale, perché il piano di Obama l'avrebbe penalizzate, no? Ecco, adesso da qualche giorno scendono anche le banche americane. C'è da dire che oggi il settore che ha affossato poi i mercati, soprattutto quello spagnolo, sono quello bancario. Ah sì, adesso leggeremo anche, visto che ce lo chiedete, molti ascoltatori si sono appena messi in collegamento, leggeremo anche di nuovo le variazioni percentuali a Milano. Un'ultima domanda però, Walter Riolfi, l'euro, perché insomma l'euro sta scendendo sul dollaro, è 1,37, ma soprattutto sullo yen è a 122, uno dei livelli più bassi, adesso non dovrei vedere il grafico storico. Vado anche a vedere, dell'ultimo anno sono strasicuro. E allora? Sì, ci sono due motivi. Uno, l'euro perde sul dollaro perché è il dollaro che si rafforza sull'euro e su tutte le altre valute. Normale, una volta scendeva perché si finanziavano in dollari, era il famoso carry trade, no? Certo. Si finanziavano andando corti, vendendo dollari per investire altrove. Ora, da novembre, questo meccanismo si è interrotto, quindi il dollaro ha recuperato su tutte le altre valute, no? Mm-hmm. Quindi c'era anche l'effetto della speculazione. Sull'euro recupera un po' di più, perché l'euro incorpora la debolezza proprio di una parte dei paesi della comunità europea, Grecia, Portogallo, Spagna in particolar modo. E quindi per questo motivo l'euro perde anche qualcosa nei confronti dello yen. Allora, la domanda non è sciocca, anzi molti ci chiedono al 349-238-6666 se è ipotizzabile a questo punto che la Grecia esca dall'euro. Difficile dire, e mi sembra anche... Più che altro non esistono, ne parleremo in un'altra puntata, non esistono nemmeno le procedure previste dall'Europa, cioè quando si è creato l'euro non si è pensato a cosa sarebbe successo se un paese sarebbe dovuto uscire dall'euro. In realtà il piano della comunità europea nei confronti della Grecia mi sembra più che un campanello d'allarme, mi sembra il tentativo di risolverlo. A un certo punto dice, bene, ti controllo io i conti e vi un sembra un commissariamento quindi, di fatto del governo greco. Quindi una garanzia. Grazie a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Allora, volete i titoli di borsa oggi? Allora, dunque, i peggiori, come già si diceva con Walter Riolfi, sono stati i bancari, ma non solo, perché a Milano il peggior titolo è stato CIR, meno 5,4, Intesa meno 5,3, Mediobanca meno 5,2, Unicredito meno 5%, Banca Popolare di Milano meno 4,80, Generali meno 4,60 e ancora Banco Popolare meno 3,80, Monte dei Paschi meno 3,3. Male anche Mondadori meno 4,60, Prismian meno 4,40, Bulgari meno 4,31, Buzzunice meno 4, Atlantia meno 3,5 e ancora Impregilo meno 3,4, Unipol meno 3, Lottomatica meno 3, Stimicroelectronics meno 3, Mediolanum meno 2,90, il 2,5 l'ha perso Autogrill e anche Eni e Luxottica e Fondiaria, Geox meno 2,4 come Ubibanca e come Enel, il 2,1 l'hanno perso Tenaris e Exor e anche Parmalat. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Volete sapere anche il Baltic Dry Index? Sì, certo, adesso proviamo a darvelo in tempo reale, però vorrei un attimo staccarmi dal mercato finanziario, dalle borse, tanto ormai abbiamo capito che cosa è successo, vedremo domani se questa scoppola verrà in qualche modo ricomposta, verrà riassorbita, oppure, cioè, domani c'è il dato sulla disoccupazione americana delicatissimo. Per ora dall'America non arriva questa indicazione, anzi Wall Street perde il 2,1%. Vorrei cambiare tema e parlare adesso di mercato agricolo e soprattutto della polemica in corso sugli OGM, che sarebbero praticamente le sementi geneticamente modificate. Eh sì, perché oggi si è inaugurata a Verona la 109ª edizione della Fiera Agricola, la seconda in Europa per numero di operatori. Domani ne parleremo anche col presidente della Fiera Verona, però soprattutto ha tenuto banco uno scontro, un botta e risposta tra il ministro Luca Zaia, fermamente contrario all'introduzione degli OGM, e invece il presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni, che li difende. E allora colleghiamoci con il presidente della Confagricoltura, Federico Vecchioni, buonasera. Buonasera. Ma che succede tra lei e il ministro Zaia? Abbiamo letto queste dichiarazioni, insomma, che abbiamo appena ricordato. Ha detto non, Zaia, non ci penso proprio, gli OGM sono schifezze, io non mangio la polenta transgenica, voi l'avete invitato a mangiare la polenta fatta con grano OGM, e faremo ricorso in tutte le sedi. Ora, c'è stata una decisione del Consiglio di Stato sugli OGM, però mi spiega perché siete arrivati a questo confronto, visto che lei gli ha risposto, ma insomma, Zaia, pensi al McDonald's e ai suoi panini? Beh, il confronto nasce su un tema che è tornato di grande attualità nel Paese, come quello delle coltivazioni biotecnologiche, i cosiddetti OGM, che noi abbiamo voluto con un gesto simbolo, cioè quello di una presentazione della polenta fatta dai nostri agricoltori con mais geneticamente modificato, rappresentare alla Fiera Agricola di Verona, peraltro dedicata all'innovazione nell'agricoltura, tenendo conto che la sentenza, o meglio la decisione del Consiglio di Stato, dà ragione agli agricoltori e mette in mora l'inadempienza dell'amministrazione del Ministero dell'Agricoltura, che da diversi anni non decide su questo tema. Oggi i consumatori devono sapere che gli OGM li consumiamo nella catena alimentare, perché importiamo soia dal Brasile e dall'Argentina al 90% geneticamente modificata, che entra peraltro in molte delle produzioni di eccellenza italiane, perché nel nostro paese non abbiamo mangimi a sufficienza per alimentare il nostro bestiame. Quindi continuare a sostenere la negazione della libertà di impresa e anche della libertà del consumatore di scegliere ci appare antistorico e anche politicamente non corretto. Allora, lei ricordava che c'è una sentenza della Corte di Stato che ha accolto le tesi di un imprenditore agricolo friulano, se non ricordo male, e ha imposto al Ministro dell'Agricoltura, e quindi allo Stato italiano, di avviare le procedure che portano a autorizzare la semina di mais OGM, quelli già ammessi dalla Comunità Europea, il MON 810 della Monsanto. Allora, due domande, Presidente Vecchioni. Mi sembra che lo scontro comunque sia molto forte, perché il Ministro Zaia non ci pensa proprio a tornare indietro e ha detto che farà di tutto per evitare questa cosa. Però, oltre alla Germania, è arrivato, che è l'ultimo paese, lo stop alla coltivazione di mais transgenico. È stato applicato anche in Francia, Austria, Ungheria e Grecia. Ora, non è che la Germania, la Francia e l'Austria siano dei paesi così incivili. Perché non dovrebbe anche l'Italia allinearsi su queste posizioni? La critica che viene fatta è: sono pericolosi per la salute, questo ne abbiamo parlato altre volte, ma l'altra critica forte che viene fatta agli OGM è: attenzione, è successo in India, è successo nei paesi in via di sviluppo, l'agricoltore diventa, tra virgolette, mi passi il termine, schiavo, dipendente dai grandi gruppi, in questo caso la Monsanto, perché poi sono loro che forniscono le semine e a quel punto ti hanno e ti tengono in mano e hai praticamente un monopolio quasi nei semi e nelle sementi geneticamente modificate. Allora, in merito a quest'ultima osservazione circa le multinazionali e circa la dipendenza dell'agricoltura che verrebbe rappresentata da quanto è stato sostenuto in questi anni dai detrattori delle biotecnologie in agricoltura, cioè che gli OGM siano addirittura sterili, la scienza ha ben chiarito che questa tesi è totalmente falsa. Non c'è un'unica coltivazione sterile di OGM che è stata riprodotta nei paesi in questi anni, e tutti i 111 milioni di ettari coltivati nel mondo sono nella gestione agricola oggi nelle condizioni di dare all'agricoltore l'assoluta libertà. L'agricoltore ha da sempre a che fare con le multinazionali, perché sia per la fornitura di mezzi tecnici, dai trattori in poi, sono tutte multinazionali quelle che vendono, per cui il dominio delle multinazionali sta nella possibilità di controllarne le attività, anche tenendo conto che la ricerca pubblica faccia dei passi avanti e non certamente impedendo ai nostri ricercatori di procedere come è avvenuto in Italia. In merito alle scelte della Francia, della Germania o dei paesi avanzati, sono scelte di ordine politico che partono anche in quei paesi tenendo conto di un'informazione che è stata data in questi anni ai consumatori, che ha alimentato più l'ignoto che non la conoscenza, e quindi sono delle tesi politiche che sono frutto evidentemente della necessità di veicolare un messaggio che sia invece più approfondito, che consenta ai consumatori di conoscere che cosa sono gli OGM, e gli OGM non sono altro che delle modifiche del patrimonio genetico, così come è sempre avvenuto in natura in modo casuale, determinate dalla scienza e dell'uomo invece in modo assolutamente determinato e controllato. Ricordiamo che l'Autorità per la Sicurezza Alimentare, che peraltro ha sede a Parma, ha autorizzato il MSBT proprio avendo verificato che non ci sono rischi per la salute. Quindi o noi riconosciamo alle autorità europee un ruolo, oppure a questo punto decidiamo che queste autorità non hanno alcuna rilevanza e andiamo avanti con i sondaggi e i referendum. Presidente Vecchioni, mi dica in una battuta, perché siamo in conclusione, ma perché dovremmo aver bisogno del mais geneticamente modificato? Cioè, stiamo puntando sulle produzioni di qualità, sulle produzioni territoriali. Perché l'Italia dovrebbe, ho capito benissimo, a parte il fatto che insomma, gli effetti sulla salute, visto che sono da poco gli OGM appena entrati in commercio, aspetterei qualche anno, ma perché dovremmo averne bisogno? Questo non capisco. Ma no, io non aspetterei qualche anno, perché gli americani li consumano da 20 anni ed effetti per la salute non ce ne sono stati, ma questa è una nostra opinione. In merito al perché dovremmo, è perché se siamo un paese libero che consente agli imprenditori ancora di essere liberi in termini di scelte, così come lo sono molti altri paesi avanzati, la necessità viene da una parte per consentire agli imprenditori di essere liberi nelle opportunità che il mercato offre, tra cui anche quelle di scegliere le coltivazioni biotecnologiche. Dall'altro, la scelta delle produzioni tipiche non è in antitesi a queste produzioni, tenendo presente, come dicevo, che i mangimi che alimentano gli animali con cui facciamo il latte, con cui si fanno le produzioni tipiche ad alto valore aggiunto dell'Italia, sono mangimi che sono costruiti e prodotti attraverso delle commodities che vengono importate da paesi in cui gli OGM sono nella stragrande maggioranza, quindi sono già entrati nella catena alimentare, e noi a questo punto diciamo ai nostri agricoltori che non li possono produrre, emulando quello che è avvenuto per il nucleare. Nucleare fuori dall'Italia, ma l'energia nucleare siamo costretti a importarla. Chiarissimo sul punto di vista, grazie al Presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Grazie a voi. E allora siamo veramente in chiusura, torneremo anche sul tema degli OGM, però devo purtroppo chiudere con una brutta notizia sempre sul fronte dell'occupazione. Abbiamo aperto il programma con Alcoa, è intervenuta la polizia adesso a rimettere ordine nella fabbrica dopo l'allontanamento dei dirigenti da parte degli operai, e abbiamo parlato anche di Fiat. Purtroppo c'è una conferma, il centro di ricerca della Glaxo SmithKline a Verona chiude, 550 ricercatori perderanno il posto in quello che è la più grande centro di ricerca farmaceutica in Italia. Molto arrabbiati da immaginabili sindacati, anche perché la Glaxo ha motivato questa chiusura con il mancato raggiungimento degli obiettivi degli utili, cioè della crescita dell'utile, che però, sottolineano i sindacati, l'anno scorso ha fatto più 11% contro un previsto più 14%, un anno di crisi. E dice la rappresentante sindacale, per una differenza così piccola resteranno a casa 550 persone. Speriamo di no, ma l'annuncio a questo punto è ufficiale. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata comunque, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.